diretta su Radio Catrame 19. Questa musichetta qui ci ricorda l'inizio di Parla come scrivi, più noto con il nome scientifico di Tittino, il Tittino di Radio Catrame, che è nient'altro che sono i Milaven da Bochum con This is Red, che segna l'inizio delle trasmissioni. Lo so, io non le ho cominciate mai le trasmissioni. Che è successo? Che cosa è successo? È venerdì, sono le 6:30, sono solo io. Parla come scrivi, se ne sono andati, non ho fatto un colpo di stato, anche se volevo, ma non è stata così. Che è successo, ragazzi? Sono l'unica questa sera di Parla come scrivi. Beh, proprio unica no, perché con me c'è un altro uomo. E che uomo, questa volta siamo solamente io e te. Non devo dividerti con nessuno, non devo dividerti con Torino, non devo dividerti con Bologna come terza torre. Sei mio, solo mio. E infatti poi ce ne andiamo a cena, io e te, eccetera. Grande Hans Fonico. E gli altri arrivano. Intanto, visto che Hans è qui, poi parleremo anche di te, ti voglio accarezzare un po'. Beccati questa! Iniziamo con te, ti ho dedicato Servo Muto, a te che sei, come dice la canzone, sottovuoto come un pesce, però innanzitutto mi è servita Servo Muto perché ci sono, cioè, cantata dal grande Strelnik, il re indiscusso di Parla come scrivi, e con la partecipazione mitica dell'uomo che mi manca di più questa sera, che è il nostro sociologo. Senza sociologia noi adesso non possiamo più vivere, anche se non è che poi sono così tanto pratici questi sociologi. Ma dove sono? Perché sono qui? Perché siamo io e te? E voi avete visto, normalmente noi andiamo online il giovedì sera alle 22:07, ma è successo una cosa che già da un po' di tempo sta succedendo. Parla come scrivi fa tendenza, è assolutamente fa tendenza. E quindi succede che anche ieri sera, prima ci copia Repubblica, lo sappiamo, Marino di Fahrenheit, di Marino Sinibaldi, ormai vive alla nostra ombra di riflesso, anche Santoro ha iniziato a fare così. Se vi ricordate, se non ve lo ricordate, scaricatevi la puntata numero 23, abbiamo parlato la volta scorsa di Rai, di Fininvest, abbiamo parlato della Rainvest, abbiamo parlato e riparlato ancora della mitica Norma Rangeli del libro Chi l'ha visto? Tutto il peggio della TV da Berlusconi in poi di Rizzoli, che abbiamo scoperto proprio noi di Parla come scrivi, cioè lei è famosissima la grande, ma l'abbiamo citata noi all'inizio. E il buon Santoro non ci fa ieri sera la puntata identica, proprio pari, per anche, finanche il pezzo della morte del Papa, quello che avevamo già detto noi. E chi c'era ospite, e l'abbiamo riscoperta noi, Raffaella Carlà, che parlava proprio del fatto che i suoi non sono programmi trash, che è diverso, lei non fa reality, parlava delle lacrime argentine, cosa che conosco benissimo anche in settimana per altri motivi, le mie lacrime argentine. A quel punto la diretta si è bloccata, perché qui agli studi eravamo pronti, si sono incazzati gli autori, hanno iniziato a telefonare a Rai 2, e si sono incazzati come Anno Zero, ma voi ci copiate in continuazione, ma dovete smettere. Allora a questo punto c'è stato un po' di confusione, i nostri autori sono arrabbiati, sono partiti in volata Strelnik e Calzolai per andare giù a Roma, anzi giù, dritti a destra, e a chiarire questa cosa, perché non si capisce in realtà bene se lo fanno un po' apposta o se in effetti ci sia qualcuno che fa un po' spiffera, qualcuno che spiffera, qualcuno di Parla come scrivi che spiffera, non lo so, noi siamo tre e poi ci sei tu, Enz, che comunque le nostre riunioni le ascolti, quindi adesso io non vorrei dire nulla, però non lo so, io spero di no, spero che non ci siano problemi, comunque i nostri due uomini di Parla come scrivi stanno risolvendo questa cosa, mi hanno chiamato poco fa, erano ancora in riunione, speriamo di risentirli magari in diretta se ce la facciamo, oppure vi aggiornerò. Quindi questo è successo, Parla come scrivi ormai fa realmente tendenza e noi ci spostiamo perché era doveroso spiegarvi quello che è successo, intanto andiamo avanti. Però che succede? Ci sono solo io, allora stasera me la canto e me la sono, mi faccio la puntata come mi pare a me, assolutamente come mi pare. E sai cos'è? Visto che sono la femminuccia del gruppo e della situazione, io me la voglio buttare un po' sul sentimentale. Me la voglio veramente buttare sul sentimentale. Perché vi devo leggere assolutamente una cosa bellissima che mi è arrivata online, mi è arrivata per mail, scusate, perché come sapete i nostri ascoltatori sono molto attivi, quindi li sentiamo per chat, li sentiamo via Skype, ci lasciano mail e messaggi, ci mandano la musica, perché vi ricordo che noi mettiamo solamente musica Creative Commons, quella di prima, all'inizio puntata avete sentito la canzone popolare di Lingerie, avete poi sentito il pezzo di Risma e Strelnik, Servo Muto, e tutte le altre cose che poi vi dirò nel corso della puntata. Ma siamo talmente Creative Commons e siamo diventati talmente ma talmente famosi che ci mandano anche dei pezzi, e ci hanno mandato un pezzo bellissimo, molto amoroso, molto molto molto amoroso. E quindi cosa vi devo dire? Io ve lo farei sentire, ve lo leggo, di un utente che non vuole farsi conoscere, io so la mail, non ve la posso dire per la privacy, ma ve lo faccio sentire. Ve lo faccio sentire sulle note di This Detroit. Lei non sarà mai un limite, ma il migliore dei punti di partenza. Se dorme sono tranquillo, come quando è sveglia, sono felice sia sveglia. E specialmente sia sveglia e sia con me. M'aiuta, lascia spazio, conduce e si fa condurre. E poi mi fa ridere, e se si parla si ride, e il serio arriva come una parentesi a ricordarmi che mi piace seriamente, casomai ci fosse bisogno di rammentarlo. Sarà fortuna sfacciata, incrocio di destini leggeri e fragili, arrivo originale di due percorsi, ma io lo so bene, non voglio, non vorrei proprio mai che mi allontanassi dal percorso intrapreso. Piovesse sangue domattina, m'alzassi e sapessi che è giorno di lutto nazionale e non si può mostrarsi felici. Lascerei che piovesse ancora e che gli altri intorno piangessero, ma io non proverei nemmeno un minuto a dimenticarmi di quello che lei è. Suona buffo, strano o retorico. Paradossalmente potrebbe anche apparire anacronistico, ma so bene che questa scelta è la migliore che potrei e che ho fermamente fatto nei prossimi anni, con tutto quello che può succedere nel mezzo, che son già meglio di quel che potevo essere, anche perché c'è lei. Direi che non è proprio la fine. Il nostro caro teleweb radio ascoltatore ci ha mandato questo pezzo bellissimo. Adesso io non so proprio se sia una cosa taroccata, se se l'è inventata. Beata la donna a cui è dedicato questo pezzo, beata all'uomo, beata alla persona, beati a chi vi pare, ma beata lei e beata a chi in questo momento prova sentimenti così. Per il resto, che dirvi? Vi ripeto, speriamo che questo non sia un tarocco, ma se voi volete fregatevi anche questo, è sempre in Creative Commons Way of Life, tutte queste belle parole, potete anche farve le vostre e farci una gran bella porca figura, magari per i bigliettini di Natale, perché no? Intanto continuiamo con i sentimenti, poi magari ci incazziamo un po', e vi... Hans, metti l'altro nostro caro amico, bravissimo, i Capuleti. L'unica certezza è il sole. In questo paese di segreti, in questo paese pieno di preti, l'unica certezza è il sole quando c'è. In questo paese di ruffiani, di gesti banali e fatti strani, l'unica certezza è il sole quando c'è. L'unica certezza è il sole quando c'è. In questo paese di miracoli si gira in tondo come a Monopoli, e l'unica certezza è il sole quando c'è. L'unica certezza è il sole quando c'è. Ed io né carne né pesce, né zucchero né sale, né sabbia né mare, né bene né male, sabbia né mare, né bene né male, né gazzella né leone, né servo né padrone, solo in solito, solo in solito, solo in solito. Eccoci qua, l'unica certezza è il sole. Hans, mi metti un po' di... ecco, volevo ben dire. Mettimi un po' di Milaven di sottofondo, che mi fanno tanta compagnia. I Milaven da Bochum, eccoli qua. Allora, io me la sto proprio godendo questa sera, perché sono sola, senza i miei uomini. Gli voglio tanto bene, ma si sta bene anche da soli. Me la canto e me la sono. E mi faccio tutte le mie cose sentimentali, quelle che non mi fanno mai fare, e poi dopo, per stare ai loro passi di cattivi, incazzati, passo anch'io per una donna agitata, per una donna cattiva. No, assolutamente no, voglio farmi le cose che assolutamente mi piacciono. Ma adesso abbiamo già dato, devo dire che questo bellissimo racconto, questa poesia che ci è arrivata, ha dato un bel tono, un bellissimo tono alla nostra radio. Adesso voglio continuare a parlarvi d'amore, di Kiss, di Atomic Kiss, ma andiamo un po' su altro genere, perché poi in fondo non è che si può fare sentimentali per sempre, assolutamente. E direi che si può fare altro, si può parlare di Kiss, ma dei Safari Nuclear Post Atomic Kiss, che non è un nuovo gruppo punk, ma è il titolo di un racconto fantastico del Grande Hotel Messico, che noi citiamo molto spesso perché è un nostro grande amico. Hotel Messico, hotelmessico.net, per chi non lo sa. Non vi preoccupate, perché tanto poi vi metto tutti quanti i link sul Radio Catrami 19. E perché? Ovviamente un altro bel racconto di Hotel Messico di Gianni, che oltretutto il nostro caro Strelnik ha videato, facciamo così, ha videato, ha dato voce alle parole di, scusate, ha dato immagine alle parole di Hotel Messico, e ci ha fatto un bellissimo post, andatevelo a vedere, perché mi manca, sì, ma è veramente bravo. Sto bene senza di lui, ma quando ci si mette è veramente bravino a fare le cose. Su hotelmessico.net lo trovate, su strelnik.it/blog trovate questo video del pezzo di Gianni. Intanto però, prima di cambiamo atmosfera, perché mi serve qualcosa per entrare in, veramente nell'animo di Hotel Messico, molto più ruvido, e io vi sparo il mio grande amore, sempre pensare nei sentimenti di questi giorni, che è il grande Vasco Brondi, alias Le Luci nella Centrale Elettrica, una scoperta musicale fantastica, fatta grazie a Parla Come Scrivi, perché vi ricordo che mettiamo sempre musica Creative Commons. Abbiamo scoperto questo ragazzo che è fantastico, Ve l'ho detto e vi ripeto che l'abbiamo anche visto al May a Faenza ed è stato favoloso. E vi confesso, visto che tanto siamo solamente fra signorine questa sera, me la posso giocare così, che oggi gli ho anche scritto una mail perché le sue canzoni mi piacciono veramente tanto che quasi mi commuovo. E gli ho scritto una mail un po' da ragazzina. Ti ricordi, Hans, mi sono sembrata un po'... Ti ricordi il film, quello lì del voglio sposare Simon Le Bono, sposerò Simon Le Bono, gli anni 80, che c'era quella ragazzina, Clizia, tutta vestita con le lumberjack, il piumino Moncler, la borsa della Naio Leari, che era patita dei Duran Duran, e quindi lo voleva sposare, gli scriveva lettere, cose, per andare ai concerti e così. E io ho fatto un po' così anche con Vasco Bondi, gli ho scritto... Guarda, ciao, sono Liv, no, non ho scritto il mio nome, è vero, è veramente bella la tua musica, mi piace molto, e insomma, così. Non mi ha ancora risposto, gli ho scritto, devo dire, giusto un paio d'ore fa, ma spero, sto anelando, come se avessi scritto in realtà, non lo so, a Bono degli U2, che mi risponda. Intanto, bando alle ciance, e ci mettiamo una delle mie canzoni preferite di Luci nella centrale elettrica, che è la gigantesca scritta COP. Vai, Ed. Fammi i tuoi discorsi metafisici sui fuori dei piercing che si richiudono sugli occhi spinti, con gli estintori sui conti correnti, coi cognomi finti. Sarà la prima volta che non andrò a votare, sarà la prima volta che non andrò a puttane. Con un alto tremendo che si è sussurrato all'orecchio, bonjour mon amour. Aprendo la finestra sopra le turbine sopra, nottambuli svelta, la gigantesca scritta COP. La gigantesca scritta COP. E i cicci c'è qui, non ci sono più. E i cicci c'è qui, non ci sono più. E i cicci c'è qui, non ci sono più. E i cicci c'è qui, non ci sono più. E hanno i fanali accesi per evitarci, e non ho paura sai degli ecomostri, dei parchimetri, dei centri commerciali, dei benzinai. Sui paracadute, coi buchi di sigaretta, d'altronde è feroce settembre. Come back settembre, come back settembre, come back settembre, come back settembre, come back settembre, come back. I sistemi d'allarme si sono sgolati, non hanno fatto feriti. I sistemi d'allarme si sono sgolati, non ci hanno sentiti. Broke from himself. Questo era le luci della centrale elettrica. E adesso, come promesso, Hotel Messico con Safari Nuclear Post Atomic Kiss. All that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Lasciate stare le strisce pedonali, i semafori, la raccolta differenziata, i vicini silenziosi. Se vi sparano, nessuno dirà che non eravate un bravo ragazzo. Se la polizia viene ad arrestarvi, le donne del vostro condominio scenderanno in strada e sputeranno in faccia ai poliziotti. Lasciate stare le canzoni di Tiziano Ferro e Biagio Antonacci. Cominciate a imparare i nomi come Raffaello e Ida Rendano. Lasciate stare le televisioni di Stato, la Mediaset, Sanremo, e cominciate a memorizzare sui vostri televisori Napoli Più, Televolla. Abituatevi a quelli che vendono eroina sul vostro ballatoio, fuori il vostro ascensore, all'ingresso del vostro garage. Prima o poi ne comprerete anche voi. Prendete posizione con o contro gli scissionisti di Secondigliano, andate a vedere Giglia Barra e fatevi crescere il pataniello sulla spalla. Occupate una casa nell'80 a Ponticelli e parlate male dei Rom. Compratevi la felpa Baci a Bracci, il Nokia N70, le Nike Silver e Ray-Ban a goccia. La cerimonia del vostro matrimonio non può finire prima delle 5 del mattino dopo l'intervento di 10 cantanti. Fate un video con il cellulare, facendo finta di sparare un vostro amico. Metteteci la colonna sonora del camorrista e mettetelo su YouTube. Vostra sorella lavora in una fabbrica di borse a San Giuseppe Vesuviano e prende 200 euro al mese. Vostra sorella fa la sciampista in un parrucchiere a Rettifilo e guadagna 200 euro al mese. Vostra sorella lavora in un'impresa di pulizia al Cardarelli e prende 200 euro al mese. Parlate male dei metallari di Piazza San Domenico e dei punk di Piazza del Gesù. Fatevi due lampade a settimana. Comprate il fumo al Terzo Mondo, a Pizzigno, nella Duchessa, nella Sanità, a Resina, a Rione Traiano. Comprate il 50 pollici LCD all'Ipercop di Afragora, il navigatore satellitare per la Smart, il Dolby 5.1, e alzate il volume su Il Capo dei Capi. Decidete di farvi una rapina a via Luca Giordano, decidete di farvi una macchina a via Cilea, decidete di farvi una SH da sotto una ragazza a piazza Arenella. Abitate a San Giovanni a Teduccio, a via Stadera, a Mater Dei, a Rione dei Gasperi, alla Gesca, alla Linan Casa, alla 177. Andate in pellegrinaggio alla Madonna dell'Arco. Camminate con uno stendardo con le banconote appese. Pregate Padre Pio prima di fare un omicidio. Chi sono questi ai semafori con la faccia marrone? Perché non se ne tornano a casa? Voi non andate da loro a lavargli i vetri. Chiedete i soldi ai commercianti del vostro quartiere, pure per le luminarie, i tappeti, le stelle di Natale, per le famiglie dei carcerati, per quelli del sistema, per la Madonna, per i tossici. Dite che vi manda Antonio Rus, Gennaro Criminale, Pasquale Boom Boom, fatevi i cazzi vostri. Non guardate la gente per strada, non fermatevi se vedete uno per terra, guardatevi da chi vi cammina dietro, guardatevi l'orologio, il cellulare, la borsa, la macchina, gli occhiali. Vi fate fare uno squillo quando le vostre ragazze rientrano in casa perché state in pensiero. Comprate un orologio rubato, un cellulare rubato, una borsa rubata, un portatile rubato. Si sono fatti un camion di Nike, un camion di macchine fotografiche, un camion di occhiali da sole. Per strada ci sono i rifiuti di 3 settimane, ci sono più topi che mosche. Da stamattina l'elicottero della polizia sta sopra il Bronx di San Giovanni. Che cazzo vogliono questi? Finti invalidi, finti impiegati del gas, finti carabinieri al posto di blocco. Borse finte, film pezzotti, sigarette di contrabbando, Barbie pezzotte. Ti aspetto fuori dalla discoteca, fuori dalla scuola, fuori dallo stadio. Andate a molestare i ricchioni a Gianturco, le nere sotto il ponte dello scasso, le polacche fuori dalla Mercedes. Vostro padre se n'è andato con una polacca che stava alla ferrovia e se la incontrate la uccidete. Questo era Safari Nucleare, Post Atomic Kiss, alias Hotel Messico, hotelmessico.net. Beh, devo dire che noi abbiamo ovviamente dei nostri preferiti, chiamiamoli i nostri raccomandati perché sono veramente dei grandi, e lui, beh certo, Hotel Messico è nei nostri cuori. Allora, dopo questo bel pezzo tosto, non posso far altro che mettervi un'altra bella canzone. Ancora lui, sempre lui, scusatemi, ma cazzo volete, mi piace. Ancora nei garage a Milano, Vasco Brondi. Semafori cominciavano a lampeggiare arancioni, mi puoi spiegare il colore acciaio del cielo? Le sfumature di grigio di cui ti parlavo, del cielo berlusconiano di Milano. Milano era veleno, Milano era veleno. E il paradosso del cielo notturno, illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose. Tifosi violenti, arruoliamo brigatisti nei mari deserti sui navigli. La curiosità ci divorava. Staremo ad abbaiare a questo cielo da rottamare, al cielo su Berlino, io lavoro in nero. Milano era veleno, Milano era veleno, Milano era veleno. Il paradosso del cielo notturno, illuminato a giorno da stelle deficienti, da stelle col tuo nome, insegne luminose. Milano da bere, Milano da bere, tifosi violenti sparano ai satelliti intelligenti, dai bar deserti sui navigli. La curiosità ci divorava, la curiosità ci divorava. Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi vuole. Eccolo qua, era il nostro Le luci nella centrale elettrica. E mi piace anche perché siamo passati da Hotel Messico, siamo passati da Napoli e siamo andati boom di colpo al nord a Milano. siamo passati a Milano innanzitutto perché poi Milano adesso è, c'è in questi momenti la prima della Scala, fuori manifestazioni di precari, dentro niente applausi ma silenzio bianco, silenzio per le morti bianche, ahimè la notizia del terzo operaio morto nell'incendio di Torino è di pochi minuti, un altro morto c'è stato ad Avellino, una persona che è caduta da un'impalcatura. E quindi che c'entra questo? Che cos'è questo filone che passa da Napoli, come dice del Messico, e dice parlate male anche voi dei Rom, ma sì, ma che cazzo ve ne frega? Passa da Napoli, arriva a Milano e si ferma a Roma. Il governo cade forse sulla sicurezza, non è caduto, era lì, è tornato il picconatore del Sardo a salvarci con il suo voto. E mentre vogliono far credere che in realtà viviamo in un paese in ostaggio di questi cattivissimi extracomunitari, la gente muore per cose molto più civili, per morte che sono incivilissime come le morti bianche. E in questo caso, e questa è la vera scommessa, e questa è la vera scommessa che speriamo di fare, non facciamo che poi cadiamo in questo equivoco. No, non voglio, perché non è vero, ragazzi, voi ci ascoltate da tutte le parti d'Italia, ci ascoltate anche, lo so, da tante parti d'Europa, abbiamo i nostri fedelissimi ascoltatori da Amsterdam, da Glasgow e da altri posti, ma sarà vero proprio così? Sarà così assurda l'Italia? Sarà peggio di Glasgow, sarà peggio di Amsterdam, che uno scende per strada e viene picchiato da un rumeno, violentato da un albanese, sputato da un nigeriano? Io non ci credo, non è così. Mi sembra molto peggio ancora uno che, cazzo, 1, 2, 3, 4, 5 persone che muoiono in un solo giorno per incidenti di lavoro. Mi sembra veramente, veramente peggio. E quindi così, siamo passati da Napoli, che è veleno anche, per molte volte, per certe cose è veleno, e siamo passati anche dalla canzone di Vasco Brondi da Milano, e come dice lui, anche quella è veleno. In questo giro di città italiane una curiosità perché c'è chi fa del male, Milano avvelena, Napoli avvelena, ma c'è chi se lo fa da solo. Nel testo di Hotel Messico, Safari nucleare post atomic kiss, si parla di Napoli anche di una cosa che io non conoscevo, forse non conoscete nemmeno voi, del pataniello. A parte mi scuso col grande maestro, grande del Messico, perché io avrò sbagliato all'80% tutti quanti i nomi e gli accenti di Napoli, però questa cosa del pataniello era interessante. O pataniello viene, o anche chiamato il tumore di San Paolino, o il tumore di San Paolino, ed è quella cosa, questa escrescenza che esce sulle spalle alle persone che si chiamano i collatori. Sono quelli che alla festa di Nola, vicino a Napoli, portano sulle spalle la statua in processione. E in realtà questo, che poi è una cosa che fa malissimo, perché un'escrescenza sulla spalla viene causata dal peso eccessivo, è in realtà visto come un segno di grande virtù, di grande passione, di grande riverenza, ed è il vero segno della festa di Nola. Va benissimo, va bene tutto, ma ragazzi, cioè, non è che noi normalmente dobbiamo accollarci dei patanielli sulle spalle, non scambiamo per cortesia il dolore per la riverenza, non lo scambiamo assolutamente. E Milano, c'è la Scala oggi, siete tutti quanti pronti e carini e imbellecciati. C'è anche Clio con il presidente napolitano. Siete tutti belli in processione a fare i carini, però guarda che quello che avete sulle spalle è un cazzo di pataniello, che comunque è una cosa che fa male, e fa male, la gente sta male, e fa male. Sono incazzati quelli fuori la Scala che stanno protestando per la precarietà, e sì, fa veramente male. A proposito di precari, grande settimana, saluto chi? I miei amici, tantissimi, infiniti precari che hanno la nuova malattia, che è quella del terzo secolo, che è abbinata strettamente, venduta insieme a un cococò, che è l'ipertensione, che l'ipertensione da stress, che va curata con A, come i medici dicono, lavoro fisso, B, eventualmente amante che magari vi rimette in gioco, oppure, non lo so, fatevi un po' di Prozac, boh, qualcosa del genere. Intanto, in onore degli ipertesi precari della Scala e di tutte le parti del mondo, Silo D'Amato, cioè Cagasonic, il lavoro rende liberi. Il naso per calarsi in questa realtà produttiva che dà incentivi, sbocchi e spinte verso nuovi obiettivi per la maggior gloria dell'azienda, senza vergognarsi un istante mai per tutta questa ridicola faccenda. Ho cercato pazientemente e non ho mai trovato niente, ho insistito per scappare insufficiente. Il lavoro rende liberi, ringrazia il padrone se è così buono che ti assume. Il lavoro rende liberi, buonasi padrone, mi dai anche le requisiti dello schiavo moderno, li sai, una cultura marketing oriente per l'inglese fluente, ok, spirito di iniziativa e visione a lungo termine, unite alla pragmaticità e alla flessibilità operativa, se vuoi, te otto ore al giorno in culo, ho cercato paziente. E allora, se è vero che il lavoro rende liberi, Hans ride, sorride. Lova è rilassatissima, ragazzi, voi non lo vedete, ma è veramente rilassato. Penso che rilassato come stasera con me non lo sei mai stato, perché non mi sono mai arrabbiata. Devo dire che poi sei stato abbastanza concentrato comunque, mentre forse quando ci sono gli altri il sociologo un po' ti innervosisci. Sai che sei il galletto nel pollaio, secondo me, questa sera, e quindi mi piace che sei totalmente dedicato a me e a nessun altro. Allora, siamo in chiusura di puntata. Nel frattempo, mentre andava la musica, ho risentito il nostro Calzolai e ho risentito anche Strelnik. Stanno tornando da Roma, dagli studi della RAI. Fondamentalmente c'è stato, come tanto va di moda adesso, un colloquio, che adesso bisogna parlarsi, è tutto politicamente molto corretto. Mi sono messi d'accordo fondamentalmente con Anno Zero, non è successo nulla, solo che hanno dichiarato che comunque in effetti i nostri autori di Parla Come Scrivi hanno una qualità altissima, molto alta, e quindi abbiamo creato una sorta di partnership culturale fra i due programmi, e quindi vedremo di interagire meglio. Interazione, ricordiamo sempre l'interazione con la trasmissione radiofonica, quella vera, che è Fahrenheit, Marino Sigibaldi. Ricordiamo che va avanti e va alla grandissima il nostro mitico concorsone delle parole che finiscono con Uzzo, E se avete delle parole che finiscono con Uzzo, avete mandato tantissime mail, continuate a farlo, fatelo però, perché questa è sinergia, nella, scrivete alla mail di Fahrenheit, fare@rai.it con l'H in mezzo, e poi Sinibaldi ci girerà tutto a noi, anche qui uniamoci, radiofonici di tutto il mondo, uniamoci. E adesso, ciao a tutti, concludo, mi manca tantissimo, mi mancano i nostri amici, mi hanno detto di salutarvi, torneremo in settimana prestissimo con tutta la troupe al completo, vi posso solo dire che avremo degli ospiti fantastici, il prossimo ospite è veramente un personaggio, ma di quelli seri, cioè intelligente, anche una persona che istituzionalmente ha un ruolo, ma non vi dirò nulla, insomma, veramente, veramente una persona importante. Nel frattempo concludo ancora, anche se forse un po' vi ho rotto i coglioni, con le luci della centrale elettrica, tanto ci sono solo io, faccio come mi pare. Canzone politica, politically correct, assolutamente politically correct, mi è venuta in mente, ahimè, quando ho visto il manifesto stamattina che titolava Gioventù bruciata. Chiudiamo con Vasco Brondi, Piromani si muore. A presto! Incendere farfalle meccaniche, le rose lisergiche, i nostri pochi orgasmi, ti ricordi dei combattimenti, fricini finti, delle sere a sbranarsi, delle sere a strafarsi. Con me non devi essere niente, con me non devi essere niente. Tenere per niente stilo tenue, quando dormo guido piano, non ti preoccupare. Tenere per niente stilo tenue, non riesco a digerire. Con me non devi essere niente, con me non devi essere niente, con me non devi essere niente. Tornino a scoppiare, a ridere, a scoppiare le nostre madonne, le uniche madonne. E tornino a crepare, ma da ridere le nostre madonne, anoressiche madonne. E incendere con palle meccaniche, le nostre risergiche, i nostri pochi orgasmi, ti ricordi dei combattimenti, freci di finti, delle sere a sbranarsi, delle sere a strafarsi. Le tue fotomodelle.